questa è una mossa soprattutto difensiva dell'esperienza di Forza Italia e poi del PDL. Io non ritengo che Berlusconi ragionevolmente voglia e pensi di riuscire a vincere la prossima tornata elettorale e a ridiventare premier. Credo che però pensi che la sua presenza riesca a ridare un minimo di forza e di peso nei futuri scenari, avere un peso specifico che ritiene che il PDL in questa situazione non può più assicurarsi, visto i sondaggi che ha, visto questo ragionamento Berlusconi in realtà credo lo facciano dopo la debacle delle elezioni amministrative, cercare un modo di ridare un minimo di consistenza e di forza e di ruolo al PDL. E ritiene che intorno alla sua figura questa operazione possa riuscire. Poi io sono d'accordo con quello che dicevi nella premessa della nostra trasmissione, che insomma i ritorni al passato sono sempre molto difficili. L'ho anche scritto nella chiusura del pezzo, che è una sfida al limite dell'impossibile quella di Berlusconi, perché molto probabilmente l'Italia non è quella del 94, ci sono state tante esperienze di governo, un giudizio spesso negativo su quello che è stata la conduzione del governo da parte dell'alleanza di centrodestra, e una situazione che ha bisogno di una guida, di una leadership che il passato non può più assicurare.